Nal gratis confettino sui tuoi a fai. Grazie. Signori, io prima di tutto devo esprimere un vivissimo ringraziamento all'Istituto per avermi concesso l'onore di inaugurare a nome di tutta la popolazione del Trentino Alto Adige questo convegno di studi. Posso tradurre la frase? Zuallererst möchte ich dem deutsch-italienischen Historischen Institut danken, das mich eingeladen hat, im Namen der Trentiner Bevölkerung Ihnen meinen herzlichen Willkommensgruß darzubringen. Io so che è, per così dire, una occasionalità questa mia presenza, ma forse essa può avere anche un significato nel momento che, mentre voi a livello culturale raccogliete due esperienze di due mondi diversi, noi sul piano istituzionale altrettante esperienze e le stesse in qualche verso esperienze raccogliamo nel Consiglio regionale. Auch wenn ich der Ansicht bin, dass dieser Besuch vielleicht nur gelegentlich ist, so arbeiten wir doch auf der Basis des Regionalrats. Sie tauschen hier geschichtliche Erfahrungen aus und wir im Trentiner Regionalrat tauschen Erfahrungen auf institutioneller Basis aus. Io so che non debbo inoltrarmi nel merito dei problemi che voi affronterete, però non per questo dobbiamo dire o possiamo dire che l'interesse del mondo politico a questi studi è vasto. Anche se per qualche verso proprio i politici, quando si parla di uomini politici, hanno la tentazione, che forse penso sarebbe una interferenza, di presumere di avere titolo per parlare. Auch wenn wir hier als Politiker vielleicht in geschichtlicher Hinsicht nicht so kompetent sind und auch gar nicht den Anspruch stellen, zu interferieren in ihrem Bereich, so glaube ich doch, dass unsere Präsenz hier wichtig ist und vor allem unser Interesse soll eben hier kundgetan werden. Io credo che i politici devono porsi in genere nei confronti della cultura e singolarmente degli studi storici con un atteggiamento sostanzialmente di umiltà, che probabilmente è il più dignitoso per il politico, proprio di porsi per raccogliere da questi studi e per fare di questi studi anche un elemento di arricchimento della propria attività. Gerade der Politiker sollte doch der Ansicht sein, dass geschichtliche Studien und politische Hand in Hand gehen sollten, also eine Einheit bilden sollten. Und die geschichtlichen Studien sollten als eine Bereicherung der politischen Tätigkeit angesehen werden. Il tema che vi proponete è quello sostanzialmente di due uomini che hanno avuto responsabilità enormi all'interno di questo mondo europeo essenzialmente di fronte ai problemi della democrazia e soprattutto ai problemi del rinascimento della democrazia in Europa. Das Thema, das Sie jetzt in Angriff nehmen wollen diese Woche, betrifft zwei große politische Persönlichkeiten, die in der vergangenen Zeit große politische Verantwortung getragen haben, vor allem was eben die Wiedergeburt und die Wiedergründung der Demokratie in Europa betrifft. Pietro Scoppola, in questo secondo, perché mi pare che nella prima il tema fosse presentato in maniera diversa, ma almeno nella seconda edizione di quel suo libro sulla proposta politica di De Gasperi, ha una frase che forse può essere l'avvio di un ragionamento su questo tema. E gli dice che certamente parla naturalmente dei cattolici italiani, ma credo che la cosa può essere riferita tranquillamente anche alla situazione della Germania del primo del secondo dopoguerra, dice che per i cattolici italiani la democrazia appariva come la via obbligata per ricostruire il paese. Ma subito Scoppola si pone una domanda. Ah, scusi. Ich möchte hier vor allem, das vielleicht ein besonders bedeutend für dieses Seminar als Auftakt ein Satz von Pietro Scoppola, der ein bedeutendes Buch über die Demokratia geschrieben hat, sagen und der über die italienischen Katholiken schreibt, aber man kann das sicher auch auf die deutschen Katholiken beziehen. Er schrieb also, dass praktisch für die italienischen Katholiken die Demokratia Christiana fast eine Verpflichtung darstellte. Also die Demokratie. Die Demokratie. Però immediatamente dopo lo Scoppola si fa una domanda che secondo me è fondamentale. Dice con quali motivazioni e con quale cultura i cattolici questo atteggiamento assumevano nei confronti della democrazia. Und gleich darauf stellt sich aber Pietro Coppola die Frage, aus welchen Gründen und mit welchen Motivierungen sich die Katholiken diese Frage stellten. E proprio di qui forse possiamo partire per vedere se in qualche verso la cultura di questi due uomini, non solo la cultura politica, ma la cultura complessivamente di questi due uomini, si è intrecciata in vario modo. Und wir können hier vielleicht untersuchen und herausstellen, inwieweit sich die Kultur dieser beiden Persönlichkeiten, dieser beiden Männer, Adenauer und De Gasperi, und an welchen Punkten sie sich getroffen hat und miteinander verflochten hat. Io credo che non si possa capire il De Gasperi della dopoguerra, del secondo dopoguerra, se non si pone attenzione, e mi pare che non troppo questo si è fatto finora, se non si pone attenzione alla formazione culturale del De Gasperi all'interno del mondo germanico e con le esperienze che il mondo germanico sul finire dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ha fatto. Die Persönlichkeit De Gasperis zu verstehen, seinen politischen Werdegang nach dem Zweiten Weltkrieg, muss man vor allem auch seine kulturelle Formierung, seine Ausbildung, besonders im deutschen Kulturraum Ende des 18. Jahrhunderts und Anfang des 19. Jahrhunderts untersuchen. Così come credo, non si possa interpretare esattamente la politica di Adenauer, se anche qui in qualche misura non si vede e non si capisce e non si apprezza anche il suo umanesimo, chiamiamolo così. In gleicher Weise kann man auch die politische Persönlichkeit Adenauers vielleicht nicht richtig interpretieren, wenn man nicht seinen Humanismus genau ins Auge fasst und untersucht. Ed è probabilmente da questo intrecciarsi di momenti culturali uniformi, da questa quasi unica origine, che noi possiamo capire anche il modo come i due uomini hanno interpretato la democrazia e come per un certo verso il loro punto finale è stato unico e uniforme nella ipotesi di una Europa unita. Und besonders aus diesen gemeinsamen Punkten, aus dieser Verflechtung, aus diesem gemeinsamen Ursprung der Kultur kann man auch vieles Gemeinsame dieser beiden Politiker erklären und vor allem ihre Politik hinsichtlich eines gemeinsamen Europas. Ma mi pare che attraverso questo itinerario dei due uomini si possa anche individuare probabilmente il punto centrale della loro concezione. Punto centrale che, almeno così, per uno che non è evidentemente uno storico, ma soltanto un politico, il punto centrale che certamente è quello della libertà, tanto vissuta e tanto insita nella concezione dei due uomini, che non ci siamo scandalizzati un giorno sentendo il De Gasperi dire la libertà figlia di Dio. Und gerade aus diesem ganzen Konzept heraus, aus ihrem Werdegang und ihrer Einstellung, kann man auch besonders erklären, dass praktisch im Mittelpunkt ihrer Politik der Begriff der Freiheit stand. Also es wurde wirklich ganz groß geschrieben und De Gasperi benutzte einmal den Ausdruck, die Freiheit ist eine Tochter Gottes. Però, iniziando proprio il convegno, io devo esprimere anche un altro concetto, che non scandalizzerà nessuno. Noi, dico i politici, ma complessivamente, non ci scandalizzeremo se gli storici troveranno all'interno della vita, del comportamento, della linea politica di questi uomini dei momenti di incertezza, degli errori, delle debolezze, probabilmente anche dei momenti di sconforto. Und ich möchte Ihnen zu Beginn dieses Studienseminars über die beiden großen politischen Persönlichkeiten noch eine Idee sagen, die von uns Politikern ausgeht. Also falls Sie in Ihren Studien, falls die Historiker in Ihren Studien in den Werdegängen dieser beiden Männer Momente der Schwäche und der Unentschlossenheit aufdecken sollten, so werden wir darüber nicht bestürzt sein. Non ci scandalizzeremo, dicevo, perché probabilmente questo è il modo più vero di accostarsi a due grandi uomini e è il modo forse anche, se mi si consente il termine, di demitizzarli. E probabilmente demitizzandoli e collocandoli concretamente nella realtà che hanno o dominato o subito, questi due uomini appariranno a noi un pochettino più umani, ma anche un pochettino più vicini. Wir werden aus diesem Grunde nicht darüber bestürzt sein, denn es wird uns auf jeden Fall sehr recht sein, wenn diese beiden Männer wirklich in ihrer menschlichen Wirklichkeit dargestellt werden und ihr Mythos etwas zurückgeschraubt wird. In questo senso vogliamo che, e desideriamo che il corso abbia tutta la sua esplicazione e speriamo che, se consentono aggiungere una, non si dovrebbe in questo ambiente, ma un pizzico, forse è consentito, dico, in questo ambiente nostrano, dove anche il De Gasperi, seppur saltuariamente, ebbe a passare un po' dei suoi tempi, dico, se anche questo ambiente contribuirà in qualche verso a rendere un po' più piacevole il vostro soggiorno qui e anche un pochettino a respirare quella stessa aria che il De Gasperi ebbe a suo tempo a respirare. Und ich möchte Ihnen nunmehr zu Ihren Arbeiten einen recht guten Erfolg wünschen und hoffe, dass auch die Umgebung, in der ja auch De Gasperi gearbeitet und gelebt hat, dazu beitragen wird, dass Sie hier recht angenehme Tage verbringen und einen recht guten Erfolg bei Ihren Arbeiten haben werden. Ecco, con questi auguri complessivi e con la fiducia di un fruttuoso lavoro, a nome di questa regione e quindi a nome di questo popolo, io apro questi lavori del convegno e auguro le migliori fortune a ciascuno di loro. Und mit diesen Wünschen für eine recht fruchtbare Arbeit in dieser Woche möchte ich dieses Seminar eröffnen und Ihnen auch im Namen der Trentiner Bevölkerung alles persönlich auch alles Gute wünschen. Tra gli uditori delle ultime file date la mia non competenza di storia contemporanea. Ricordo anche che i beiden coordinatoren die Arbeit des Seminars überlasse und mich als nicht kompetenten in die letzten in diese Zeitgeschichte in die Reihen der Zuhörer einreihe. Sì, certamente io ho a che fare solo con uomini morti da almeno 300 anni, quindi ho problemi. Ecco, e credo invece che i problemi nell'affrontare personalità ancora così incombenti nella storia europea come Adenauer e De Gasperi siano appunto, come tutti sanno, estremamente complessi e possono dar luogo anche a, non dico certamente tensioni, ma indubbiamente diciamo a un impegno di polemica e di dibattito piuttosto vivo. Ich glaube, dass eben bei dieser der Untersuchung von zwei so großen politischen Persönlichkeiten es viele Debatten, Diskussionen und auch Polemik geben wird. Naturalmente, appunto come diceva all'inizio, il nostro compito è quello di incanalare queste discussioni nel metodo strettamente scientifico di lavoro seminariale. Unsere Aufgabe ist vor allem eben diesen Diskussionen einen wirklich rein wissenschaftlichen Charakter zu verleihen. Il nostro metodo è quello di fare, come loro hanno visto anche dal programma, una lezione ogni mezza giornata e di far seguire, dopo un breve intervallo, una discussione che quasi sempre è più ampia della relazione stessa. Die Methode unserer Seminare ist die, dass also jeweils am Morgen und am Nachmittag ein Referat stattfindet und danach, nach einer kurzen Pause, die Diskussion, die meistens viel länger ist und reicher, länger, sagen wir mal, als das Seminar selbst, als das Referat. Regolarmente intorno ai tavoli e per questo si è mantenuta anche questa forma della sala, insomma, senza pregiudicare l'assistenza e la presenza di altri partecipanti, di uditori che possono in qualche modo partecipare, sia pure indirettamente, alle discussioni. Der Saal wurde deswegen so eingeteilt, dass also die Referenten und die Teilnehmer an diesen Tischen Platz nehmen, während die Stühle im Hintergrund für die Hörer gedacht sind. Ora la parola al professor Konrad Reckling dell'Università di Bonn e poi professor Umberto Corsini dell'Università di Bonn. No, prego, prego. Sì, Presidente, signore e signori, mi spiace tanto, ma la mia pratica nella lingua italiana non è che posso parlare tutte le cose che voglio dire nella sua lingua e perciò sono tanto lieto che il caro collega Abril vuole agli italiani tradurre quei due o tre idee che voglio dire per l'introduzione del nostro seminario. Prima di tutto ora dire la profonda grazia di tutti i tedeschi ospiti di questo istituto per un seminario che mi sembra che sarebbe veramente ricca per tutti i partecipanti. Wir sind schon so oft hier, oder ich bin jeden, habe das Glück gehabt, schon so oft hier in diesen schönen Räumen Gast zu sein. Ich bin besonders froh, dass wir auch über dieses Thema hier, über diese Thematik hier sprechen können, von der, glaube ich, beide Seiten viel lernen können. In Deutschland kennt man de Gasperi den Namen nach von, bei den Älteren, die ihn zu Lebzeiten noch erlebt haben, aber Sie müssen bedenken, dass mehr als die Hälfte der heute in Deutschland Lebenden erst nach 1945 geboren ist. Es gibt in Deutschland keine einzige Darstellung in deutscher Sprache irgendwie von wissenschaftlichem Gewicht über de Gasperi. Es ist jetzt gerade vor wenigen Wochen ein schmales Bändchen von 120 Seiten mit einem Lebensbild erschienen, das der erste Versuch ist, de Gasperi zu behandeln. Denn als wir dieses Seminar, ich weiß nicht, wie die Situation in Bezug auf Adenauer und Italien ist, aber auch hier ist die historische Forschung ja gerade erst in den Anfängen. Als wir das Thema für dieses Seminar planten, war uns klar, dass es hier nicht um die Beziehungen geht, die die beiden Männer im Wesentlichen in den Jahren 1949 bis 1953 miteinander verbunden hat, sondern dass der wesentliche Ertrag, der wissenschaftliche Ertrag unserer Referate und Diskussionen darin zu sehen sein wird, dass der italienische Weg und der deutsche Weg bei allen Gemeinsamkeiten in so vielen Punkten unterschiedlich gewesen ist, dass erst im Vergleich dieser beiden die Eigenart eines jeden deutlicher herauskommt. Ich möchte das an einem einzigen Beispiel hier nur zeigen. Wenn der Kollege Scopola sagt, für die italienischen Katholiken war die Demokratie nach 1943 bzw. 1945 eine Verpflichtung, so gilt dies selbstverständlich für die deutschen Katholiken auch, nur in einem anderen Sinne. In Deutschland ist es überhaupt kein Problem gewesen. Es ist nie eine Frage gewesen, ob dieser Weg notwendig wäre. Dinge, die hier noch in sehr starker Weise, wie Scopola vielleicht auch etwas übertrieben schon, die Möglichkeiten, die Gegensätze herausstellend, dieses gerade in dem Buch über La Proposta de Gasperi herausgestellt hat, das ist für uns überhaupt keine Frage gewesen. Oder wir werden am Freitag etwa über Einfluss von Kirche auf Politik zu sprechen kommen. Die deutsche Politik ist vom Kirchlichen immer viel unabhängiger, unvergleichlich viel unabhängiger gewesen als die italienische, auch dort, wo sie von Katholiken in katholischem Sinne betrieben wird. Also es wird hier sehr viele Unterschiede geben, die, glaube ich, für beide Seiten aufschlussreich sind. Zum besseren Verständnis, zunächst einmal im wissenschaftlichen Sinne und darüber hinaus auch in einem weiteren Sinne. Wenn dann weiterhin unsere Tagung von der Ricostruzione, Rifondazione della Democrazia spricht, so trifft das bei Adenauer genau. Adenauer hat sich, das ist in manchen guten Quellen bezeugt, als eine Art Founding Father dieser Bundesrepublik Deutschland gefühlt. Er wollte sie gründen, nicht nur außen, sondern auch innenpolitisch, sozialpolitisch so, dass sie ein festes und stabiles Gemeinwesen würde. Und gerade damit beschäftigt sich jetzt in Deutschland seit einigen Jahren, in den letzten Jahren in sehr verstärktem Maße auch die historische Forschung. Der deutsche Philosoph Hegel hat einmal den berühmten Satz gesagt, dass die Geschichte immer erst anfängt, wenn die Dinge zu Ende sind. Die Eulen der Minerva fliegen eben erst am Abend. Immerhin hat sich die Zeit, in der die Historiker mit der jüngsten Vergangenheit sich beschäftigen, sich in unserer Lebenszeit, ich gehöre nach der freundlichen Formulierung von Herrn Prodimo schon zu den weniger Jüngeren in diesem Kreise, schon in unserer Lebenszeit hat sich dieser Zeitraum sehr verengt. Wir haben in Deutschland heute bereits für die staatlichen Archive eine Benutzungssperre von 30 Jahren. Das heißt also, Ende dieses Jahres werden die staatlichen Akten des Jahres 1949 der Bundesregierung für die Benutzung im Allgemeinen, für die wissenschaftliche Benutzung im Allgemeinen freigegeben. Wir haben im Übrigen, das gilt für die ersten 14 Jahre, in denen Adenauer Bundeskanzler war, zwei wesentliche weitere Quellenbestände. Die amtlichen Akten werden zwar zugänglich, die Verschlusssachen aber nicht. Es wird also doch nicht so sein, wie es wird also hier noch immer einige Schwierigkeiten geben. Wir haben einen sehr umfangreichen Nachlass Adenauers, der sich in Rhöndorf befindet. Und wir haben seit 3 Jahren auch ein Zentralarchiv der Christlich-Demokratischen Union. Der stellvertretende Leiter, Dr. Buchstab, ist hier, wird vielleicht darüber auch noch einmal etwas sagen können, sodass wir, gerade weil die Christlich-Demokratische Union die Regierungspartei in diesen 14 Jahren gewesen ist, von dort sehr viel machen können. Und schließlich haben wir Adenauers Memoiren, die literarisch sicherlich kein Meisterwerk sind, auch nicht sein sollten, weil sie fast ausschließlich aus Quellenexzerpten und Aktenexzerpten bestehen, bis hin zu den vertraulichsten Aktenstücken, die ein wirkliches, die für viele Jahre hinaus daher noch der Ausgangspunkt aller Forschung sind. Meine Damen und Herren, ich will bewusst darauf verzichten, jetzt schon einige inhaltliche weitergehende Aussagen zu machen. Das wird sich vielleicht besser am Schluss unseres Seminars machen lassen. Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass die immerhin schon eine Reihe von Sammelbänden zunächst, aber auch schon von größeren Monographien uns einen streng historischen, mit den Regeln der Geschichtswissenschaft gearbeiteten Zugriff zu der deutschen Nachkriegsgeschichte erlauben, dass wir gerade daher besonders daran interessiert sind, zu erfahren, wie haben sich in den gleichen Jahren ähnliche Probleme in Italien abgespielt und dass wir daher sehr froh sind, einmal in dieser Woche hier darüber diskutieren zu können. Allen Beteiligten dafür jetzt zuvor schon unseren herzlichen Dank. Dunque cercherò di riassumere quello che ha detto il professore affinché io aggiungerò poche parole a quanto è stato detto dal collega Rifgen nella presentazione dello spirito e dei lavori di questo seminario. Credo che anche noi da parte italiana abbiamo molto da apprendere e da imparare, proprio per i motivi già accennati che, come la figura e l'opera di De Gasperi prima del 1945 era poco conosciuta o conosciuta da pochi nella Repubblica Federale Tedesca, nella Germania, altrettanto, come è stato già sottolineato, è accaduto per noi, per la parte italiana, per quanto concerne l'opera e la figura di Adenauer. Non intendiamo comunque anticipare in alcun modo alcuna delle questioni di interpretazione e di valutazione in sede storica dei progetti politici che guidarono nella loro azione di governo Alcide De Gasperi e Adenauer. Quali siano stati questi progetti politici nella loro realtà e di similianza e di diversità e con l'ausilio di quali forze nazionali ed internazionali siano stati avviati e condotti innanzi, c'era quello che apprenderemo dagli illustri relatori italiani e tedeschi, ai quali anch'io personalmente porgo il più vivo ringraziamento perché il loro contributo alla conoscenza di queste due grandi personalità, una delle quali, come Alcide De Gasperi, è più direttamente legata non solo all'Italia ma anche a questa nostra terra, il loro contributo sarà, darà senza dubbio dei risultati, anche se non apolitici, e sempre possibili oggetto di discussione, di risultati ulteriori di ricchezza. Vorrei sottolineare che l'aver abbinato in un sol tema seminariale le esperienze di rifondazione della democrazia in Italia e nella Repubblica Federale Tedesca non è una conseguenza meccanica dei fini istituzionali di questo istituto, che è appunto un istituto storico italo-germanico, ma che sembra a me corrispondere ad una obiettiva esigenza storiografica e metodologica di esame comparativo dei problemi politici e sociali interni ed internazionali e delle soluzioni per esse proposte ed attuate in due paesi che avevano avuto una loro recentissima storia in parte analoga e in parte diversa, ma che dopo il 1945 dovettero affrontare problemi comuni in sede interna e in sede internazionale. Quello della rifondazione della democrazia in politica interna e del reinserimento, con l'acquisto della necessaria credibilità, nel concerto internazionale degli Stati a sistema democratico parlamentare. È ben noto quanto disse De Gasperi in apertura del suo intervento dinanzi ai negoziatori di pace dei paesi vincitori, nell'intento e nello sforzo appassionato di aprire un varco di nuova credibilità e nuova fiducia al popolo italiano, che, fatta salva la parentesi appena appena allora finita, meritava questa fiducia per la sua precedente storia e per la rinata volontà democratica. Nel 1961 ebbi la fortuna di sentire a Berlino il professor Heuss, il primo presidente della Repubblica Federale Tedesca, che sottolineava come il suo impegno e il suo cruccio maggiore fosse stato quello di riacquistare fiducia in sede internazionale per il popolo tedesco. Problemi comuni, urgenti, nati da quella catastrofe della guerra che aveva coinvolto contemporaneamente i due paesi. La situazione internazionale a guerra finita condizionò certamente, è stato un tema già toccato alcune volte già oggi, condizionò certamente le scelte politiche in Italia e in Germania, ma non solo in dipendenza di immediati bisogni e urgenti necessità interne dei due paesi. La scelta libera ed autonoma per il ritorno alla democrazia occidentale si sviluppò sotto la guida di Adenauer e di De Gasperi, che rifondavano gli Stati, al governo dei quali erano stati chiamati, sulla base di principi etici, da tradursi in strutture costituzionali, in norme giuridiche e in costume di rapporti internazionali. Indubbiamente, l'esperienza che De Gasperi ebbe nel Parlamento viennese, quell'esperienza caratteristica del movimento cattolico trentino, quando il Trentino era nell'impero asburgico, e ignota in gran parte ai cattolici italiani, che avevano una posizione prima del 1918 di non partecipazione diretta con partito organizzato alla vita politica italiana, quella esperienza che De Gasperi ebbe al Parlamento viennese, quel Parlamento che rappresentava allora per la Mitteleuropa quelle che sono le aspirazioni che oggi ha tutta l'Europa occidentale, Quell'esperienza indubbiamente influì in modo determinante nella libera scelta che i cattolici e le altre forze politiche italiane fecero per la rifondazione della democrazia. È uno dei temi sui quali si è intrattenuta la storiografia italiana riguardante Alcide De Gasperi, ma più negli anni immediatamente successivi al 1945, a volte anche in tono polemico, più che nel periodo successivo. La revisione del pensiero e dell'impegno politico di De Gasperi fino al 1918, anche se non è oggetto preciso di questo seminario, crediamo sia un elemento essenziale per comprendere anche gli orientamenti politici del De Gasperi post 1945. Aggiungerò che questo nostro seminario ha un suo precedente nel convegno storico italo-tedesco del 1971 in Salerno, al quale presero parte come relatori illustri colleghi presenti come professor Bendiscioli, Monticone, Moscati, che sono relatori anche in questa nostra settimana di studi, e al quale parteciparono come membri delle due delegazioni italiana e tedesca anche il professor Lill, qui pure presente, e il professor Valsecchi, ambidue membri del comitato scientifico di questo istituto. Due relazioni di quel convegno del 1971, che aveva come tema fondamentale dalla dittatura alla democrazia, Germania e Italia nel periodo posteriore al 1943, due relazioni di cui avevano come titolo avvicinato l'era di Adenauer e l'era di De Gasperi. A guardare all'indietro di questi pochi anni che ci separano dalla uscita della scena politica e dalla morte dell'uno e dell'altro, pare proprio che si debba ormai parlare di un'era. Tanto sono mutati i tempi e tanto di conseguenza si sono arricchiti e a volte modificati i criteri di valutazione e di giudizio dell'opera dei due statisti e del loro periodo. Dal convegno di Salerno ad oggi, la conoscenza di nuovi documenti, non ancora completa in Italia, un'iniziativa era stata presa per poter avere modo di pubblicare scritti inediti di De Gasperi, a cominciare dal periodo più lontano della sua militia politica, e ci auguriamo che questa iniziativa possa essere ulteriormente radicata e condotta a termine. Dal convegno di Salerno ad oggi, la conoscenza di nuovi documenti ed una ulteriore ricca storiografia non scevra anche di posizioni contrapposte inducono ad una serena rimeditazione di quelle due ere, rimeditazione serena sul puro piano della ricerca scientifica e storiografica. Questa è la ragione del nostro seminario, dal quale anche noi ci attendiamo l'arricchimento delle nostre conoscenze. Nach 1943, am Ende des Krieges, bis hin zur Ära De Gasperi und Adenauer stattgefunden. Er hat gemeint, dass unsere Arbeiten an diese Dinge anknüpfen. Er hat kurz von der in Italien vielleicht etwas ungünstigen Situation der Zugänglichkeit zu den Dokumenten gesprochen, hofft aber, dass hier auch gerade in Bezug auf De Gasperi bisher ungedruckte Schriften De Gasperis dass ich die Situation doch bessern würde. Es gibt zum Beispiel, dass vielleicht für die deutschen Teilnehmer einige Entwürfe, die Gasperis für die ersten Proklamationen, die ersten grundsätzlichen Proklamationen im Winter 1943 und 1944, die zwischen 1942 und 1943 erschienen sind, und diese Texte liegen noch nicht voll vor. Gerade die inneritalienische Diskussion geht heute weitgehend um die Bedeutung, um den Inhalt, die Però, si dovrebbe intendere l'attualizzazione, secondo me, anche in un senso diverso, cioè noi, proprio perché siamo coscienti della vita attuale, degli errori che ognuno di noi, i politici compresi, commettono giorno per giorno, dovremmo da questa esperienza adesso attualizzare, nel senso di comprendere più e meglio i nostri padri, non gettare discredito o in qualche caso un merito che forse i nostri padri non ebbero, con la malia di attualizzarli. E una prova di questa attualizzazione mi viene anche da quello che diceva l'amico Orsini. Noi veramente il 1971 ci sembra un'epoca antichissima, insomma. De Gasperi e Adenauer si studiano oggi come si studiavano forse un tempo Bismarck o Cavour, ma vorrei che si studiassero però proprio come si studiano Bismarck o Cavour. Vorrei che ora si facesse su questi personaggi che ci sembrano tanto lontano proprio quel tipo di lavoro, di opera, di cosa che si usa fare. Per esempio, dall'amico Romeo quando scrive un volume su Cavour, che si fa dall'amico Prodi quando si occupa, pur mettendo una sua carica propria, naturalmente, una sua interpretazione propria, quando studia il Seicento. Questo è il punto. Quindi, questo mio intervento, vedo che c'è una relazione, non la leggo e non la prenderò neanche tra le mani, vuole avere in questo seminario proprio un intento provocatorio per stimolare i giovani, per stimolare i colleghi a prendere posizione contro di me e contro le cose che vado asserendo. Io, è certo che ognuno di noi, come dicevo poco fa, mette, quando fa storia contemporanea, soprattutto un anziano come me, un po' della sua ideologia personale, un po' della sua esperienza di vita, un po' dei suoi amori, dei suoi non amori, e non può fare altrimenti. E io naturalmente avrò tante di pezze del genere, ma ritengo che bisogna, col passare degli anni, io credo in un certo senso di averlo in qualche mio saggio fatto, e distaccarsi, insomma, quanto più è possibile, avendo un'obiettività quantomeno formale di fronte ai documenti. Perché noi siamo in un momento, scusate se io dico questo, ma vorrei che anche su questo i giovani intervenissero, in cui ho l'impressione che ci sia nei giovani un certo bisogno di chiarezza, bisogno di non ambiguità del linguaggio, il bisogno di una certezza, come diceva il professoressa anche documentaria, scientifica, eccetera, a cui si possa ritrarre ognuno di noi la propria, un proprio giudizio, una propria convinzione. A proposito di quello che diceva il presidente Paris, io potrei essere suo padre o suo nonno, quindi mi permette il mio tono, insomma, mi scusi. E cioè, mi è meravigliato che il presidente della regione Trentino Adige ha detto a un certo momento che è il De Gasperi che ha poco operato in questa regione. De Gasperi ha operato a lungo in questa regione. Mi è parso un po' strano, è stato forse un lapsus momentaneo, ma mi pare che l'esperienza giovanile di De Gasperi e l'impegno che De Gasperi ha messo in questa regione è stato molto forte. E l'amico Corsini ha ribadito un po' questo punto e ha accennato anche a volumi che non si pubblicano, che si dovrebbero pubblicare e non si pubblicano. Per esempio la raccolta degli scritti di giornalistici di De Gasperi del periodo posteriore a quello dell'impero austriaco e che si dovevano pubblicare da tanti anni, mi pare che non sono, siano stati pubblicati. E quella raccolta così ben fatta, così ben curata, Gabriele De Rosa, anche se ci sono qualche lacuna che io non so spiegarmi in quegli scritti, e troverebbe un complemento degnissimo qualora si pubblicassero gli scritti dei giornalistici di De Gasperi del periodo successivo, che hanno tutto un'importanza enorme proprio come accennava il presidente Valles, per far conoscere molto da vicino l'uomo con la sua fisionomia vera, con qualche sua debolezza, anche con qualche, e non perché questo sia una debolezza, ma è una. Io ricordo per esempio di aver letto un suo, e rientriamo un po' nel tema mio, un suo articolo dell'aprile 1924, quando il principe Umberto venne a Bolzano e venne a Trento, in cui De Gasperi e spiegava con molta chiarezza quale era il concetto che gli aveva della funzione della monarchia, soprattutto nel caso che si trattasse di una regione come questa che aveva delle minoranze all'oblotte, aveva Bolzano che era sud Tirol, come. Perché diceva, e faceva gli elogi in fondo, di quella concezione in fondo superstatale che poteva avere la monarchia nel periodo asburgico, dicendo proprio il principe di Piemonte, e col suo fisico, con la sua cosa, potrebbe essere un elemento d'attrazione per i paesi che sono stati finora abituati a vedere, a personalizzare in un sovrano la loro identità regionale, insomma, in un complesso del tipo l'impero asburgico. Per quel che riguarda poi la giovinezza di De Gasperi, naturale, ha ragione molto il presidente, ha ragione anche il professore, bisognerebbe in quel campo incidere di più, bisognerebbe veramente studiare di più, ma non è che non ci sia stata una bibliografia, insomma, di un certo valore su questa, già la pubblicazione di De Rosa, dei saggi e degli scritti di De Gasperi sui cattolici tedeschi, sul Centrum, su tutta la formazione, in fondo, che diciamo proprio di cultura germanica che ha avuto De Gasperi, e è stata notata sin dagli inizi, e direi che anche poi ci sono state anche recentemente dei volumi di Don Pedeschi, di cose che hanno messo in rilievo come l'influenza che su di lui ha avuto, insieme a una certa influenza murriana italiana, ma molto pregnante l'influenza dei cattolici germanici. E del resto, a rileggere quegli scritti di De Gasperi di quel periodo, viene fuori proprio qualche cosa di molto importante che bisogna aver presente. In fondo, l'estraneità, direi in un certo senso, di De Gasperi dalla cultura italiana, ma era una cultura veramente quasi tutta di origine germanica e del mondo di lingua tedesca. E è difficile in quegli scritti trovare accenni a uomini nostri nel Risorgimento, a meno che non si tratti di Manzoni o di altri, come pensiero politico, come cosa che gli unici accenni che De Gasperi fa sono a persone di quel mondo. Io volevo poi intervenire come vecchio archivista, come studioso di archivi, anche su qualcosa che è stato detto finora. E si dice, in Germania noi abbiamo questa possibilità di studiare di più, si stanno facendo delle altre iniziative, in Italia meno. Ma in Italia bisogna dire che gli archivi da qualche tempo, io non so, non è che ci sia una legge precisa, che la legge è rimasta quella stessa, cioè ci vorrebbero i 50 anni però praticamente si dà il permesso a tutti, il Ministero dei Beni, Ministero dell'Interno, prima, che aveva uguale larghezza di quella che ha ora il Ministero dei Beni Culturali, in fondo, anche questi nuovi libri che noi vediamo, gli scritti di Piscitelli, che sono nella prima fase, scritti del 1960-62, già pubblicavano i verbali dei consigli dei ministri del 46-48. Allora, non mi dico ora, insomma, non c'è persona che voglia. Sono più limitanti forse gli archivi statali delle province, ma l'archivio centrale dello Stato, l'archivio degli esteri, sta usando una politica non liberale, ma liberalissima in questi ultimi anni, non c'è studioso che, del resto lo vedete, aprite qualunque giornale, vedete che si pubblicano documenti, i giornalisti purtroppo, non gli storici, pubblicano documenti del 50, 54, 55, la più grande disinvoltura. C'è l'altra esigenza, cui faceva anche riferimento il professore, di una maggiore apertura di archivi ecclesiastici. La situazione è naturalmente diversa in Germania, in Italia. Qui quello che si vorrebbe è che si aprisse gli archivi della Chiesa Cattolica universale, perché non è che c'è archivi romani che non siano archivi della Chiesa. Sì, visto che un'esigenza del genere, nella rivista Il Mulino è stata presentata pochi giorni fa da un giovane borsista, Riccardi, che sia ecoteco con Scopola, e dice, è perché questo è un campo in cui noi, insomma, studiosi italiani, insomma, possiamo fare pressioni, diciamo, in questo senso, ma non c'entriamo. Quindi io non ho questa sensazione che ci sia una politica illiberale degli archivi in Italia rispetto a una politica liberale degli archivi in Germania. Anche su questo punto, contraddicendomi, può darsi che qualche giovane in qualche città di provincia per la tesi di laurea troverà un direttore che si attiene alla legge e dice no, non sono passati 50 anni, e può fallo in qualche volta per una ragione di altro tipo, cioè è ancora vivo per caso l'uomo. In parola sono vivi i figli, molte volte un giovanissimo può pubblicare documenti veramente che hanno un ragazzo un carattere familiare riservato e qualche senso di responsabilità dovrebbe pure esserci. Per quel che riguarda il tema specifico che io dovrei trattare, dato la fortuna che abbiamo di avere qui un degno rappresentante della regione trentina e non vorremmo tediarlo con troppo, io mi limito, salvo poi la discussione e l'accettazione di questa mia provocazione, che mi spero sia ampia, venga fatto forse dopo che il nostro presidente avrà lasciato, avrà tanti impegni che non potrà stare a sentire, le gliela riassumo molto semplicemente. Io dico una verità ovvia che ora bisogna, chissà perché, più non dire, che mi pare così chiaro qual è stato l'atteggiamento in quel momento. E io qui ho fatto tutta la storia dal 43, 44, rifacendomi spesso a volumi che voi anche conoscete, a quell'ottima collezione, eccellente collezione di documenti che ha pubblicato l'amico di Norti, di Mirontello, eccetera. La posizione che ha De Gasperi di fronte al problema istituzionale è veramente chiara, limpida, insomma, come egli è veramente, a differenza di Croce, di liberali che si dichiaravano agnostici, ma poi insomma, hanno fatto la campagna, insomma, di lei come partito, non come singolo, perché anche dopo questi anni come singoli poi nave centro-meridionali hanno fatto i candidati monarchici in un certo momento, ma sul piano proprio del partito De Gasperi fu veramente molto fedele a questa sua linea agnostica, perché aveva un partito di cui lui sapeva benissimo che nella sua maggioranza nell'Italia centro-meridionale in punte abbastanza notevoli anche nell'Italia settentrionale, era fatta ancora di monarchici, e sapeva anche che la Chiesa Cattolica, insomma, sì, dal 43 aveva chiaramente preso una posizione di, chiaramente non direi, con chiarezza no, ma il pontefice nei suoi di simpatia in fondo per la famiglia reale, per la monarchia, per la paura del salto nel buio, la paura del comunismo, eccetera, De Gasperi dovette logicamente operare, però da grande politico, insomma, in quel senso, cioè di prepararsi per le due alternative, cioè, prepararsi per mantenendosi fedele al giuramento prestato come Presidente del Consiglio di essere fedele alla tregua istituzionale, e se aveva potuto, ed era nel clima del 44, aveva potuto fare degli accenni, anche perché non aveva ancora prestato giuramento come Presidente del Consiglio, ma eccetera, alla persona del Rena, a Brancaccio, in cui aveva contrapposto, è vero, la figura del giovane re che era arrivato a Trento con la figura fredda del sovrano che aveva ricevuto lui e gli altri deputati dell'Aventino nel 25, quando egli con Amendola e gli altri fece un disperato sforzo per far sì che la monarchia prendesse una posizione in quel momento, la freddezza del sovrano in quell'occasione, e fece quelle note dichiarazioni anche nei confronti dei comunisti che sono state molto ricordate in questo ultimo periodo. Io volevo ribadire in questa mia relazione una cosa oramai chiara, nota, che i comunisti, bisogna dare atto a Giorgio Amendola e agli altri, hanno detto con tanta chiarezza per rimanere la monarchia e purtroppo, per fortuna, non so come volete dire, una posizione preminente, prioritaria nel momento. La cacciata di Mussolini all'inizio del 25 luglio, insomma, bene o male, tardivamente che sia stato fatto, insomma, ma fu fatta dal re Vittorio Emanuele e gli uomini politici, insomma, non erano riusciti e non potevano riuscire, data la situazione, a fare altro di quello che fecero. La posizione di De Gasperi è chiarissima, e anche riconfrontando, rileggendo, ce l'ho qui, i verbali del Consiglio dei Ministri, avevo visto che Gambini ha tralasciato, anche parlo di un volume di Gambino sulla Democrazia Cristiana, ha tralasciato qualche punto che è significativo, poi semmai ne parleremo. De Gasperi, anche dopo il 10 giugno, ha accettato e non poteva non fare una posizione di, come dire, di cauta e di coraggio insieme, di fermezza, di quel coraggio indispensabile in un certo momento, quando la questione non sembrava più sostenibile, che gli permetteva, gli permise di avere intorno al suo partito, intorno al suo movimento, nel periodo successivo, questa grande forza, che era forza elettorale. De Gasperi era un uomo drammatico e ci sono molte lettere sue molto interessanti. In proposito, credo che l'amico Aliberti, che ha molto riletto, mi pare, quel volume di Lettere al Presidente di Malvestiti, abbia notato sul caso Pullara, famoso, una lettera molto interessante che fa vedere anche la differenza dei tempi. Il De Gasperi dice, ma in fondo dice qui il dibattito interno del partito fino a un certo punto e che credete che continuino 2000 lettori di rivista, di giornali, quello che conta sono i voti ed è l'unità che deve avere il partito. In quel momento tutto quello era esatto, adesso la situazione è diversa, l'opinione pubblica, i giornali e cosa hanno, i mezzi di comunicazione di massa hanno un peso che in quel momento non avevano, e De Gasperi era nel vero. Allora noi possiamo accusare De Gasperi o di dire, come si dice, di Scelva il culturame, eccetera. In quel momento egli era un uomo drammatico, politico, che voleva l'unità dei cattolici, che voleva, proprio dopo che era finita l'istituzione monarchica, che bene o male dava una certa saldezza a questo vecchio Stato risorgimentale, saldezza nella burocrazia, nell'esercito, voleva creare uno Stato che non si lasciasse sopraffare dai comunisti. Mi pare che agì come non poteva agire meglio, insomma, e d'altra parte bisogna dare atto al luogotenente che, pur essendosi, anzi al re, che pur essendosi impuntato su una questione formale e giuridica, capì che almeno una parte dei suoi, della sua, della corte, degli aiutanti di campo, capì che non era il caso di drammatizzare la situazione quando era chiaro che il risultato del referendum il 18 giugno, la Corte di Cassazione non avrebbe potuto che confermare una certa vittoria per la Repubblica, non si ostinò minimamente e posso dire che si comportò per evitare la guerra civile con molta lealtà, insomma, il principe Umberto che si era via via venuto maturando, insomma, in quei due anni di esercizio della questi poteri, sia pure così controllati da parte delle forze politiche della monarchia, ma che aveva acquistato una certa sua esperienza, ed questo è stato riconosciuto da tutti in quel momento, sia dagli americani, sia dai politici italiani, sia da Croce, sia da altri, aveva, e che diede anche lui, pur con quel messaggio, che cosa, un contributo alla pacificazione italiana. E quindi l'essere riuscito a pilotare con tanta abilità, con tanta maestria, con tanto, ripeto, fermezza in un determinato momento, questo difficile trapasso dalla monarchia alla Repubblica, è uno dei meriti di De Gasperi, ed è stato suo il merito da allora, proprio perché la situazione si complicò, sia ben chiaro, insomma, dopo la fine della monarchia nei rapporti con le forze di sinistra. Su questo punto, se volete, potrei leggervi anche qualche pezzo della mia relazione che ho scritto, e lo rileggeremo quando forse commenteremo. E il grande merito di De Gasperi fu di sapere affasciare forze di ispirazione socialista democratica, forze di ispirazione liberale, e di ispirazione repubblicana, due partiti che seppure allora erano, forse anche ora, non so, anche allora erano in posizioni un po' discordanti parecchio su alcuni punti, però rappresentavano per De Gasperi questo ancoraggio in fondo del nuovo Stato che egli si avviava, dello Stato che egli, nella continuità che anche il rinnovamento si avviava a creare, e l'aiuto di queste forze che, seppure molto distanti, e anche sul caso specifico istituzionale erano state distanti, però rappresentavano una comune apprezzamento positivissimo, si pensi ad Amendola, a Giovanni Amendola, si pensi alla Malfa, di quello che era stata l'eredità della destra storica. Questi due partiti in fondo avevano questo di comune, e questa è eredità della destra storica, rappresentata da questi due partiti, influenzò De Gasperi anche in un certo momento, e io penso che alcune omissioni, alcuni ritardi, alcune cose che si imputano a De Gasperi furono invece proprio delle scelte che per quel momento storico De Gasperi fece deliberatamente, perché sapeva benissimo una situazione come quella, alcune volontà riformistiche troppo spinte che hanno avuto diritto di cittadinanza dopo, potranno oggi averlo o domani, avrebbero potuto scardinare questo Stato. Su quello che riguarda i rapporti appunto con i comunisti in quel periodo, quando discuteremo, io ho degli appunti scritti, delle cose che possiamo mostrare, possiamo confrontare con le tesi degli amici avversari. prima. Noch einmal zu Beginn den Namen zu sagen und in zwei, drei Sätzen, was man ist, was man tut, beziehungsweise hierauf zu verweisen, damit man sich untereinander besser kennt. È un'altra comunicazione per l'organizzazione. Il pranzo è alle ore 13 puntuale. 13 puntuale. Alle ore 1, alle ore 13 puntuale, qua vicino. Che vuol dire che alle 1 meno 10 bisogna assolutamente chiudere, nel caso in cui le richieste di intervento fossero maggiori, non fossero esaurite, cercheremo di inserirle nei lavori del pomeriggio. Per coloro che, non essendo né relatori né borsisti, hanno però desiderio di poter fruire di questa parca mensa a cui ci avvicineremo alla fine dei lavori, è possibile per tutti, perciò, acquistare in segreteria al primo piano il buono per il pranzo al prezzo di lire 4.500. Ole sui pellini, tutto completo. Sono questi già? Sì, di questi buoni. Si può portare più. Rinolfo, welcher die amerikanischen Quellen, Taylor war ja Vertreter Roosevelts seit Beginn des Krieges bis 1949, die italienisch-vatikanischen Quellen in italienischer Übersetzung herausgegeben hat. Und das ist eine außerordentlich reichhaltige Dokumentation, nicht nur über die vatikanische Politik, sondern auch über die italienische Innenpolitik vor allem, weil hier grundsätzliche Fragen immer wieder behandelt. Bitte schön, Herr Lieber. Ich möchte nur einen Satz hinzufügen, einen Punkt, der wahrscheinlich also noch viel diskutiert werden wird. Es war mir ja schon ungefähr klar, was der Redner bezüglich der neuesten Publikation meint. Da haben wir im Gespräch draußen nochmal ganz klar festgestellt, er hält die Interpretation von Frau Polak für nicht haltbar. Nicht haltbar. Für nicht haltbar. Das wollte ich nur noch kurz hinzufügen. Allora, possiamo cominciare. Chi vuole cominciare? Chi rompe il ghiaccio? Detto di con il dottor Buchstab. Pure sa chi di Arnold. Mi ist nicht ganz klar geworden, konnte auch nicht klar werden, weil der Moscati sich ja sehr zusammenfassend geäußert hat, welche Gründe für seine Gegnerschaft zu Scopolas These vorhanden sind, dass De Gasperi nun doch nicht zum Kommunismus intendiert habe. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn da das mir jedenfalls nicht bekannt ist, das im Einzelnen noch ein bisschen ausgeführt würde. Domanda. Sì, domanda praticamente per quale ragione lei ritiene insostenibile la posizione di Scopola della interpretazione del caso di Comuni. Mi pare. Per quale ragione? Io dico, non entro nella situazione di oggi, io entro nella situazione storica dell'ieri. Che cosa, insomma, Scopola, a parte è stata giusta la precisazione del professore che il volume di Scopola è precedente alla pubblicazione dell'ottima ricerca di Rinolfo, e noi abbiamo ora degli elementi maggiori di quelli che Scopola, che è il volume di Scopola del 70, se sono uscito più tardi, ma molte di quelle ricerche, molti di quegli scritti di Scoppola erano grosso modo stati in parte anticipati già nel 73, 74, nel 73 in un convegno tenuto italo-francese, tenuto a Napoli, e la relazione di Scoppola in quel convegno era, secondo me, accettabile in toto, perché era molto importante in quel momento le cose che Scoppola asseriva. Via via questa posizione si è andata, insomma, gonfiando in una certa direzione che a me pare scopertamente politica dell'oggi, non storia politica dell'ieri, anche se quest'ieri naturalmente ha influenzato via via l'oggi. Cioè, ritorno in fondo a ribadire quello che diceva prima, alcune cose che non si sapevano allora non possono essere utilizzate come se la gente o qualcosa conoscesse allora queste cose. Alcune cose che non si sapevano e alcune cose che erano così evidenti all'opinione pubblica. Quando io sento dire, sento scrivere, si scrive che la Democrazia Cristiana, con i suoi dibattiti interni, con i suoi discorsi, creò una certa atmosfera che portò ad alcune soluzioni da venire. Tutto questo può essere vero, cioè se si dice che nell'età di De Gasperi alcuni fermenti che potevano essere rappresentati dalla sinistra cattolica, dal comunismo cattolico, e con molta esagerazione, perché il dossettismo è tutt'altra cosa, cioè il mito del Partito Popolare, ma non è quello che qualcuno orecchiando male vuole intendere oggi, che tutte queste cose così ridotte, così non conosciute dall'opinione pubblica avvenissero, è senza dubbio un fatto molto importante per la Democrazia Cristiana del futuro o dell'oggi. Che la Democrazia Cristiana voglia prendere oggi una sua linea politica che a me può non piacere, è padrona della Democrazia Cristiana di prenderla, insomma, ma sul piano storico non bisogna dare a questi fermenti, a queste cose, un'importanza politica in quel momento. Che cosa c'è di vero? Di vero c'è che naturalmente l'opinione pubblica non si è resa conto negli anni 50, diciamo, o cominciata a rendersene conto allora, l'opinione pubblica, i votanti, sia ben chiaro che c'erano gli intellettuali che queste cose le sapevano, c'erano persone impegnate in un disegno storico, politico, che queste cose le conoscevano bene, ma quando io sento dire o vedo scritto che non si capiva che la Democrazia Cristiana era un partito, sarebbe diventato un partito grosso, si temeva ancora, tutto questo a me fa ridere, perché come uomo di quell'epoca, diciamo le cose con la chiarezza più estrema, perché siamo intesi, ma tutti noi ce ne siamo resi conto, e come, perché c'è poco da dire, in quel momento non è la Democrazia Cristiana, e la gente che si rifugia, vede il pilastro della monarchia che è caduto, vede il pilastro per alcuni del fascismo, e gli italiani si rifugiano in chiesa come nel Medioevo, insomma, e avemmo tutti l'impressione che l'unica salda istituzione fosse la Chiesa Cattolica. La Democrazia Cristiana, per riflesso, perché era nell'opinione pubblica il partito che sarebbe stato dei cattolici. Voglio dire che se Dio non voglia, in quel momento, noi, tutti gli italiani, avessero pensato o saputo che la Democrazia Cristiana era quel gruppo, ma quel gruppo avrebbe avuto 500-600 mila voti in Italia, non di più. E la Democrazia Cristiana ha avuto 8 milioni di voti. Insomma, nel 48, insomma, ne ha avuto... E dico, è inutile che sul piano storico, drammatico, dei fatti, che è quello che conta poi, almeno per quel periodo, che l'ideologia oggi abbia un'importanza enorme, l'ho detto già prima, quando citando quella lettera a Pullara, che è autore peraltro di un volume che non so se gli amici democristiani hanno letto. L'avete letto quel volume di Pullara su De Gasperi? Che era della vecchia guardia. Pullara. Sì, Pullara che era della vecchia guardia, milanese, eccetera, che era uno scontento, che sia vivo ancora, ha creato quel partito popolare, cioè ha scritto una biografia su De Gasperi che... State attenti, dico una buttata proprio... polemica, che è interessante per questo, perché lui contribuisce anche lui, scusate se io sono chiaro, a me De Gasperi era un uomo che era nel mio cuore, insomma, in fondo, per un certo periodo. Questi studi di storia contemporanea, queste cose, stanno cominciando a farmelo diventare antipatico. So benissimo che non è De Gasperi quello che ora si descrive, ma in un certo modo, per riflesso, mi stanno facendo diventare antipatico anche De Gasperi. E il Pullara, dall'altro punto di vista, Pullara non era un uomo di destra, era un uomo che ha preso a Gronchi, ha preso a Malvestiti, ma con quel volume su De Gasperi, quella biografia su De Gasperi, così formalmente affettuosa nei confronti dell'amico, ma così acida, così proprio da destra, così terribilmente astiosa nei confronti De Gasperi, è un volume che va letto anche quello per vedere a che punto, insomma, la faziosità politica da una parte e dall'altra può giungere nel deformare i caratteri di un uomo che non lo era come lo si descrive. In quel momento De Gasperi era anticomunista per la pelle, nel 42 era anticomunista, nel 43 ha stentato moltissimo prima di mettere una firma dove sarebbe stata apposta una firma di un ignoto, come si scrive nei volumi e anche nei ricordi di Bonomi o di qualcuno che parla con facilmente il comunismo. Che mise la firma un ignoto comunista e un nostro collega, professore universitario comunista che insegna all'Università di Salerno. E prima di mettere quella firma, sta di fatto che in un primo momento che il disegno togliattiano di Salerno non fu un'invenzione un po' sui Togliatti, perché i comunisti italiani già avevano l'idea che bisognava servirsi della monarchia per cacciare i fascisti, e i comunisti iniziarono, attraverso i contatti che i liberali ebbero con Concetto Marchesi con gli altri, e vennero in un secondo momento e insomma, giustamente dal loro punto di vista, insomma, quelli che si chiamarono, no, che si già cominciavano a chiamarsi democratici cristiani, a poi a entrare, insomma, nel Comitato di Liberazione Nazionale. Questa è la realtà, non possiamo deformarla, ed era giustissimo che fosse così, perché De Gasperi sapeva benissimo qual era l'atteggiamento della Chiesa Cattolica. Lui non era scoppola, ma che non ha letto il volume di non poteva leggere i documenti di Dinolfo, ma quando sapeva benissimo qual era la situazione, ed è un'altra, secondo me, Prodi mi corregga, un'altra impostazione non esatta, quella di ritenere che Monsignor Montini fosse così rappresentasse, lo rappresentò in un altro momento nel Vaticano, l'antitesi di Monsignor Tardini, ma Monsignor Tardini è stato il primo che ha fatto il nome di De Gasperi, mentre gli altri, Maglione la prima, gli altri facevano ancora i nomi dei vecchi liberali, come possibile, lo sapete benissimo perché gli altri documenti degli atti della pubblicati dal Vaticano, questi già ce l'avevano detto prima di queste ultime pubblicazioni. Quindi voler, solo perché in un certo momento, lì per contingenze, cioè data la situazione, data la non rottura ancora palese, come fu tra qualche tempo, tra americani e comunisti, e De Gasperi si è lasciato andare nel 1944 ad alcune affermazioni, e arzigogolare su quelle, solo su quelle, quando De Gasperi, lo stesso Scoppola, che è uno storico, mette le mani avanti e dice ci sono migliaia di documenti che dimostrano l'anticomunismo di Scoppola, di De Gasperi, però io seguo il mio disegno, su questo non è Scoppola che sbaglia, siamo noi che da un certo momento, anno terzo era Scoppola, ora pare che prima di Scoppola non ci sia stato nessun volume e che la storiografia inizia di lì. E questo qui l'ho detto al Presidente della Regione, lo confermo anche a voi, insomma. Non partito di massa, il nome partito di massa, come sapete, venne anche quello dai comunisti, ma partito popolare, partito che avrebbe avuto moltissimi voti, ma fu chiarissimo a tutti noi, per questo fatto, è proprio fondamentale, perché voi, soprattutto i ragazzi, non si rendono conto di alcune cose di quel periodo, e la testimonianza di noi vecchi è importantissima, e insomma, i ragazzi credono che tutti noi, per esempio, allora conoscessimo il nome di Gramsci. Io ho trovato soltanto Salinari, buon'anima, che mi ha detto: Filis, ma tu avevi sentito mai nominare Gramsci? No, mai. Ed è, quando è venuto Togliatti nel Mezzogiorno, tutti voi avete letto il diario di Croce, ma nessuno forse ha semmai che un certo Ercole, che mi si dice sia un Togliatti di Torino, questa era l'informazione di quel momento. I comunisti erano il diavolo. E naturalmente uno che era dietro la Chiesa Cattolica e i contatti col diavolo non li voleva. Poi c'era stato di Salerno il governo Bonomi e si era creata una situazione per cui il Comitato di Liberazione un ministro senza portafogli in quel posto dovette naturalmente avere una sua posizione politica, quella sì contingente di breve periodo, ma la linea di De Gasperi c'è poco da fare, non la si può capovolgere, secondo me. Partiti popolari, partiti di massa, anche per un'altra ragione, a cui io non ho accennato. Questi partiti potettero, sia ben chiaro e dirlo anche questo, non avevano e non potevano avere preclusioni, proprio perché erano destinati a diventare partiti popolari, partiti di massa, con i fascisti, fascisti non compromessi naturalmente a un livello alto, ma i poveri fascisti che si epuravano, eccetera. Chi sia Togliatti con la sua politica del bastone e della carota, con l'amnistia fatta a intravedere il Ministero della Giustizia, e l'ha scritto anche Pio XII in uno di quei documenti del famoso Dinolfo, diciamo, reclutavano gli sbandati del fascismo nelle loro file, e naturalmente non poteva non fare lo stesso, seppure con limiti, così la stessa Democrazia Cristiana. Fallimento dell'epurazione, ma l'epurazione fallisce a un certo momento anche per questo, perché c'è interesse che la gente voti. Scusate se sono sempre molto drastico, è chiaro, ma... Forse ho risposto non proprio. Kann so einige Punkte jetzt nur heraus tun, so so kommt die Gefahr, dass es etwas ungenau fällt, auch ein Buch später wieder zurückgekehrt ist. Also, Herr Moscati sagt, zunächst mal ein ganz äußeres Faktum, das Buch von Scoppola ist zum Teil einfach dokumentarisch überholt durch die Texte, die Dinolfo danach herausgebracht hat. Und da kann man also, das sind die Texte, von denen Herr Raffini sprach, da kann man also die verschiedenen Phasen der Entwicklung De Gasperis und seiner Politik nachlesen. Dann hat er sehr stark betont, dass einige Dinge, auf die sich die neue Interpretation stützt, damals nichts anderes gewesen sind als Fermente einer Minderheit, Gedanken einer Minderheit innerhalb der Partei, die jedoch damals noch keine akute politische Bedeutung gehabt hat. Dann hat er zum Beispiel darauf hingewiesen, wie es mit der Massenpartei gewesen ist. Es wird heute unterstellt, dass die Democrazia Cristiana hätte Angst haben müssen, eine relativ kleine Partei zu bleiben, die also nur das Wählerreservoir der früheren katholischen Volkspartei sammeln könnte. Dass das aber einfach durch die Fakten widerlegt ist, weil eben die DC und darauf kam ja jetzt zum Schluss eben auch die große Sammelpartei gewesen ist, welche die vielen faschistischen Mitläufer an sich gezogen hat. Und das andere, dass diese faschistischen Mitläufer auch gar keine andere Alternative hatten zu den Kommunisten, die also die radikale Säuberung wollten, konnten sie ja schließlich nicht gehen. Und die DC bot ihnen eben eine relativ sichere politische Heimat. Und im Zusammenhang damit sind dann auch die Entfaschistisierungsmaßnahmen gestoppt worden im Sinne einer allmählichen Normalisierung. Und dann hat er mehrfach betont, dass dass De Gasperi ganz klar antikommunistisch war und dass er auch die kommunistische Taktik durchschaut hat, die aber allgemein bekannt war, dass nämlich die Kommunisten mit den Verabredungen, die sie in Salerno damals getroffen haben, indem sie also dann in die nationale, in die monarchische Regierung eintraten, dass die Kommunisten wie andere Kräfte sich der Monarchie bedienen wollten, um mit ihrer Hilfe den Faschismus zu stürzen und, man darf da wohl hinzufügen, um in den Staat und seine Institutionen einzutreten. Dass De Gasperi jene Situation genauso erkannt hat wie viele andere damals und dass De Gasperi andererseits die Position der katholischen Kirche klar erkannt hat, die also im Kommunismus eine Art Teufel gesehen hat. Dass aber De Gasperi sehr deutlich sah, dass die Amerikaner damals noch nicht mit den Kommunisten gebrochen hatten und dass, wenn er Politik machen wollte, er von der momentanen Allianz zwischen Alliierten und Kommunisten Kenntnis nehmen, sich nicht gegen diese Allianz stellen und dass er deswegen einige Äußerungen getan hätte, die die Zusammenarbeit mit den Kommunisten betonen. Das seien aber einige Äußerungen aus einem kurzen Zeitraum, eben jenem, in dem die Kommunisten noch bei den Alliierten angesehen waren. Und er sagt etwas polemisch, es gibt tausende von Dokumenten, aus denen ein ganz anderer De Gasperi spricht. Aber alle diese tausende Dokumente werden in diese Interpretation nicht hereingenommen, sondern nur die wenigen, die De Gasperi in jener Situation getan hat, während sein ganzes weiteres politisches Verhalten eine ganz andere politische Linie zeigt. Dann scheint mir noch sehr wichtig zu sein, dass er sagt, nachdem dann auch noch die Monarchie zusammenbrach, war in diesem Land die katholische Kirche die einzige integrierende Kraft und die Italiener auch die Masse der faschistischen Mitläufer. Die hat sich geradezu wie in vergleichbaren mittelalterlichen Situationen in die Kirche gemischt. Und damit kam eben auch der katholischen Kirche eine sehr starke politische Rolle zu, die sich zugunsten der Demokratie Christiana und zugunsten des antikommunistischen Kurses De Gasperis ausgewirkt hat. Auch hier sagt er dann, man kann natürlich an Montini erinnern, aber Montini, der damals vielleicht schon politisch weiter links stand, ist nicht repräsentativ für die römische Kurie. Der Prälat Tardini ist es gewesen, der praktische Staatssekretär Pius XII. Questo non proprio così, insomma, che erano una figura, diciamo, rappresentativa, ma anche Montini, però non come Tardini, però non aveva ancora assunto quella, come dire, quella parte, a cui poi dopo si è detto che Montini. Allora, ob Montini damals noch nicht der Meinung gewesen sei, wie man ihm später zugeschrieben hätte, dass dagegen Tardini ganz klar nicht auf alte liberale Politiker, sondern auf De Gasperi als künftigen Ministerpräsidenten hingewiesen hätte, seine Kandidatur vorgeschlagen hätte, dass also in diesem Spannungsfeld De Gasperi plus einer sich zur Volkspartei erweiternden DC, katholische Kirche mit Pius XII, dass da eben die politischen Schelme getan worden seien und dass eben keineswegs die in die Richtung gegangen seien, die jetzt aus diesen wenigen Dokumenten herausgelesen wird. Ich kann vielleicht noch hinzufügen, dass er, um zu betonen, wie sehr die politisch-geistige Situation von heute und von damals unterschiedlich war, er ein Beispiel brachte. Er sagte, 1943, 1944 kannte in Italien den Namen Gramsci niemand, auch die Kommunisten nicht. Der ja heute sozusagen in aller Munde ist, ob gelesen oder nicht gelesen. Und das brachte nur als ein sehr drastisches Beispiel. Es sind aber jetzt, glaube ich, zwei Wortmeldungen da von Herrn Bendicholi und von Ihnen. Oder ja, Sie hatten es gerade. Professor Moscati ha posto un problema preliminare, cioè quello del valore della storiografia dei fatti contemporanei. E l'ha fatto con riferimento polemico e critico a Scopola. No, in genere, cioè, no, no, senso, adesso dopo Scopola diventa. No, del tutto. Ora vorrei richiamare attenzione su un fatto metodologico fondamentale. I giovani si buttano nella storiografia dei fatti contemporanei perché hanno a disposizione una grande massa di documenti, giornali, di dati, però in genere dimenticano che accanto a quello che c'è dovrebbe essere investigato quello che è sparito. Chiunque ha fatto l'archivista ha fatto questa esperienza, che i vincitori hanno distrutto non solo gli avversari, ma anche i documenti degli avversari. E il compito dello storico è di ricostruire un panorama che tenga conto di tutte le forze in azione. Io sono stato uno dei primi a affermare in Italia la legittimità di una storia contemporanea nell'insegnamento universitario, però con forti limiti fisici. E una giustificazione che può essere data anche di questi tentativi di storia degli avvenimenti contemporanei è che, oltre ai documenti che usano gli storici, c'è la possibilità del controllo dei protagonisti. A questo riguardo mi permetto di chiamare che questo confronto, che è stato un forte scontro, proprio per il periodo che riguarda la nostra considerazione De Gasperi, è avvenuto a Firenze nel 75. In questo quadro di questo convegno organizzato dall'Istituto della Storia e Resistenza Italiana, che aveva come titolo iniziale Italia 45. I documenti e le relazioni sono stati pubblicati invece col titolo Dalla Resistenza, l'Italia dalla Resistenza alla Repubblica. Ora è avvenuto lo scontro anche nei riguardi di Scopoli. Lo scontro maggiore è avvenuto proprio perché gli storici, i protagonisti presenti, non hanno riconosciuto nelle ricostruzioni dei giovani che hanno lavorato solo i documenti la validità del proprio del programma di allora. Lo scontro tra città Cattani è stato vivacissimo, vero? Ora, i protagonisti, cioè i protagonisti o i testimoni, ecco, io sono. A questo riguardo, per esempio, permetti, hanno dato molta rilevanza nel convegno del 75 è una mia affermazione. Io ho ricordato un lungo colloquio con De Gasperi del 23 luglio del 43 e ricordo che De Gasperi, nella prospettiva di quello che poteva avvenire, ha posto, ha prospettato tre condizioni perché potesse avvenire una risistemazione senza sconvolgimenti. E uno di questi tre punti, che più non me li ricordo, era che il Partito Comunista accettasse il regime democratico. Purtroppo questi appunti sono andati distrutti perché sono stato arrestato e le consorte hanno preso fortuna di bruciare tutto. Un'altra osservazione, qui è stato menzionato il volume di Nolpo. Ora, parecchie delle cose che di Nolpo ha menzionato sono già negli atti della Santa Sede, negli atti della Santa Sede, della Costituzione corrotta, vero? A proposito poi di Montini, da Tini, a parte che sono la mia amicizia personale con Montini mi permette di sapere tante cose, però, ma sono ricordato la famosa udienza della principessa, però, e dei nomi fatti là, e del modo in cui sarà cavato Montini. Comunque, Tartini era un tipo bizzarro. No, perciò io ho rettificato lui, non è che mettevo sullo stesso piano i due. La situazione di Tartini, che ritiene certamente quella di Pio XII, era il comunismo. La preoccupazione del comunismo. Per quello che riguarda i rapporti appunto del Vaticano con la De Gasperi, eccetera, i rapporti delle persone non erano molto edificanti perché aveva dei forti avversari legati al Vaticano. Però è tutta un'altra storia, un'altra vicenda, e che mi permetterò di accennare poi domani quando parlerò del consenso. Sì. Secondo me il consenso, uno dei successi, chiamiamoli così pure per il termine volgare, di De Gasperi è stato proprio là. Aver ottenuto il consenso della gerarchia e dell'azione cattolica che aveva un'importazione diversa, cioè l'accettazione del famoso metodo democratico. La democrazia cristiana nasce democratica, su questo non c'è dubbio, vero? Ma si trattava di far accettare questa concezione democratica in quel vasto mondo cattolico che poteva essere diverso. E chiedo scusa, David, vielleicht für die Deutschen ganz kurz das zusammenfassen. Herr Bendi-Scholli hat zwei Punkte behandelt. Zunächst ist er noch einmal, oder drei, zunächst ist er noch einmal auf das methodologische Problem eingegangen. Historiker müssen nicht nur die Dokumente, die noch da sind, benutzen, sondern müssen sich fragen, welche Dokumente hat es gegeben, die von den Siegern beseitigt worden sind, die nicht erhalten sind, und erst, man muss auch das Nicht-Erhaltene in das Kalkül einbeziehen. Und gerade gilt das für die Zeitgeschichte. Er sagt, ich bin einer der Ersten gewesen, die an italienischen Universitäten für die Behandlung der Zeitgeschichte eingetreten sind, sagt aber auch, ich sehe die Schwierigkeiten, die in der Zeitgeschichte liegen, und hat das dann an einem Kongress der 1965 von der italienischen Gesellschaft, die sich die Erforschung der Resistenza damit beschäftigt, also die italienische Zeit von 43 bis 45, wie hier zunächst das Thema hieß Italien 1945 und schließlich hieß die Überschrift Italien von der Resistenz bis zur Republik. Dann kam Punkt 2, Juli 1943, Juli 1943, eine der drei Bedingungen De Gasperis für die Zusammenarbeit mit dem Kommunismus ist, dass der PCI dann demokratisch ist. Und zwar demokratisch, wenn ich Sie recht verstanden habe, auch nach Ihrer Auffassung, unter den Bedingungen De Gasperis und nicht unter den Bedingungen des PCI. Dann zu Di Nolfo, dessen Wert er nicht prinzipiell ablehnen will, sagt er, dass ja in einem Teil der Dokumentation von Di Nolfo nichts Neues dokumentiert ist, außerdem sogar in einer Übersetzung, was im Original in den Actes Documents Essentiels de la Deuxième Guerre Mondiale bereits vorliegt. Allerdings darf ich vielleicht hinzufügen, die sind ja leider erst bis Ende 43, und der gute Pater Martini kommt nicht dazu, 44 und 45, ich glaube aber, dass es jetzt bald kommen wird. der Wert Klinolfos bleibt aber immer noch darüber hinaus für die späteren Jahre liegen. Und kommt dann noch zu dem Thema Montini, Tardini. Er betont bei Tardini, ebenso wie bei Pius XII., die beherrschende Sorge vor der Stärke und Bedeutung des Kommunismus in der Nachkriegszeit, in Nachkriegsitalien, aber auch in Nachkriegseuropa. Das sei der eigentliche Leitgedanke gewesen. Und darauf habe de Gasperi sich eingestellt, und er wolle nicht seinem morgigen Referat vorgreifen. Aber der Konsens, der italienische Konsens, besteht für de Gasperi darin, dass er diese Sorge vor dem Kommunismus, die in der Hierarchie ist und die sich mit den Massen seiner Anhänger durchaus deckt, in ein politisches Kalkül hineinnimmt. Wenn ich Sie recht verstanden habe. Dankeschön. Io non ho che da essere d'accordo con l'amico Mendicioli, anche se capisco benissimo che uno studioso molte volte metta in dubbio il racconto del testimone, insomma, è credibile Mendicioli, può essere credibile meno qualche altro. Io ho per esempio l'esempio di un uomo politico, in fondo fascista, poi monarchico, poi liberale, come Roberto Cantalupo. Io ho potuto documentare che tutte le cose che scrive Cantalupo sono false, e sempre che muore un uomo, e quindi non c'è, e moriva un uomo e non c'è la possibilità di smentita, Cantalupo ti scrive anche su De Gasperi cose che non è possibile che lui, che Cantalupo, nato per esempio fosse stato mandato a avere contatti con De Gasperi quando De Gasperi venne a Roma nel 14. Cantalupo era un principiante allora, per esempio, e tante cose, e soprattutto su politica estera, l'amico, che è un competentissimo pastorello, mi darà atto che non è credibile. E quindi Mendicioli è credibile, e un altro insomma può essere non credibile. Quindi che ci sia un po' di diffidenza da parte soprattutto dei giovani, che poi non sanno valutare insomma cose perché non sono vissuti. Si dovrebbe fare una commissione di noi più vecchi, che si dicono questo è credibile e questo no, perché insomma ci sono gente che non è credibile. Peccato che l'ho lasciato in albergo e non posso fare la citazione testuale. De Gasperi dice: ho certamente anch'io cercato la collaborazione con il Partito Comunista, ma questa si inseriva in un quadro internazionale nel quale si prevedeva la collaborazione tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, nel quale si prevedeva, possiamo dire in termini riassuntivi, la collaborazione tra il mondo che si ispirava ai principi della democrazia occidentale e quello che si ispirava ai principi della democrazia orientale, per mantenermi in termini netti. Ora, tra questi due mondi, la collaborazione è cessata e lui, naturalmente, come tutti gli uomini di tipo occidentale di quel tempo, attribuivano esclusivamente la colpa all'Unione Sovietica. E quindi ritorna l'antico antagonismo e riprendo quella che era la via del, chiamiamolo, confronto, dello scontro, comunque non più della collaborazione. Questa quindi è la risposta che De Gasperi stesso dà al problema posto da Scopo. Ma venendo a quello che diceva prima a proposito degli archivi, professor Moscati, devo dire che il libro di Scoppola, a parte l'aspetto politico, ha avuto un effetto negativo molto notevole per gli studiosi. Scoppola aveva beneficiato della consultazione delle carte dell'archivio De Gasperi. Dopo che la famiglia ha visto che queste carte sono state utilizzate per la polemica politica dell'oggi e dopo che anche un collaboratore di De Gasperi, il consigliere Bartolotti, aveva dato altre carte a Gambino, la risposta della famiglia De Gasperi è stata che le carte non si vedono più, come ho potuto io constatare personalmente, perché dice, se le diamo a storici e gli storici poi le utilizzano come le utilizzerebbe un giornalista politico, cioè a quel punto lì non diamo più niente a nessuno, lasciamo ancora passare del tempo e vedremo quello che succederà in futuro. Non sarei quindi così ottimista sulla larga apertura degli archivi anche italiani di cui parlava il professor Moscati. Io personalmente l'archivio privato. Quello è un archivio privato, però se vai al Ministero degli Esteri e chiedi di vedere le carte relative al problema che tratterò nella mia relazione della politica europea di De Gasperi, anche lì non si riesce a vedere nulla. Ti autorizzano al massimo a vedere i dati di stampa, ma questi li trovano nei giornali. All'archivio centrale dello Stato ti rispondono che tutto si può vedere, l'amico Crispo, poi dico è un amico nostro di vent'anni, però si scontra con la confusione delle carte che debbano essere riordinate e quindi si riesce a vedere poche cose sulle quali si è costretti a lavorare, quindi direi che De Gasperi rimarrà adesso per un certo tempo un personaggio, per quello che non si è spiegato finora, ancora abbastanza oscuro, proprio perché l'accesso alle fonti serie, alle fonti significative, manca totalmente. Damit vielleicht gerade das, was Herr Pastorelli gesagt hat, für die deutschen Teilnehmer noch übersetzen, weil es, glaube ich, sehr aufschlussreich ist. Er hat zwei Punkte. Zunächst einmal hat er einen methodischen Einwurf, nein, nicht nur einen methodischen, sondern auch einen argumentativen Einwurf gegen die Argumentation Scopolas und sagt, Scopola geht aus von einer Rede de Gasperis im Palazzo Brancaccio Ende 44 über die Zusammenarbeit mit dem der Demokratia Christiana mit den italienischen Kommunisten. Aber er schildert selbst, Scopola, zum Schluss der Zusammenarbeit, dass die Entscheidung der Regierung de Gasperi zum Bruch mit den Kommunisten nicht auf Einwirkung von außen, wie es USA, sondern als autonome Entscheidung der Regierung erfolgt ist. Und das sei ein innerer Widerspruch, wenn ich den De Gasperi sozusagen als in eine Situation, die von äußeren Einflüssen her gezwungen ist, das vorne annehme, dann kann ich das eben nicht so erklären. Er hat das dann noch in einem längeren Zitat aus dem einer Rede, in der de Gasperi selbst im Juli 1946 über seinen Bruch mit dem Kommunisten, sich geäußert hat und das auch in der in die veränderten Situation der de Gasperi sprach von einer Demokratie occidentale und einer Demokratie oriental. Wir würden also sagen, einen Unterschied zwischen westlicher Demokratie und sogenannter Volksdemokratie. Hat er das erläutert, das brauchen wir aber nicht zu machen. Dann hat er einen zweiten Punkt gebracht, der für uns vielleicht sehr aufschlussreich ist. Er sagt, er teile und zwar aufgrund seiner Erfahrung, seiner empirischen Erfahrung, nicht den Optimismus Herrn Moscatis in Bezug auf die Zugänglichkeit der Archive. Zunächst einmal, die Gasperi-Akten gehören der Familie. Die Familie hat sie zur Verfügung gestellt und nachdem die Familie nun merkt, dass diese Quellen, die von dort her, die dort benutzt worden sind, nun ihrerseits Gegenstand der aktuellen italienischen Parteipolitik und der Auseinandersetzung innerhalb der Democrazia Cristiana über die richtige Politik der Democrazia Cristiana geworden sind, hat die Familie gesagt, zu uns kommt gar keiner mehr an die Akten heran, sodass also der Erfolg der Zugänglichkeit ein negativer gewesen sei. Und das gelte nicht nur für Privatarchive, er hat es auch noch für das Buch von Gambino in Bezug auf Cartolotto gebracht, das brauche ich aber hier nicht länger auszuführen. Das gelte auch für die Staatsarchive. Er selbst habe für seinen Vortrag über die Untersuchungen über die italienische Außenpolitik beim Archiv des italienischen Außenministeriums einen Benutzungsantrag gestellt, der sei abgeschlagen worden. Beim Zentralarchiv sei es zwar pro forma etwas anders, dort bekomme man Zugang, aber wenn es um die entscheidenden Aktenserien geht, dann befinden die sich zurzeit in Ordnung oder in Archivordnung, sodass also die Zugänglichkeit nicht gegeben wäre. Ich möchte hinzufügen, auch in Deutschland ist es nicht so, dass alles zugänglich ist. Die sogenannten Verschlusssachen in den Staatsarchiven sind prinzipiell nicht zugänglich. Da nun die Bürokratie, die Ministerialbürokratie nach 1945 sich angewöhnt hat, belangloseste Dinge mit dem Verschlussstempel zu versehen, ist der Bereich dessen, was bei uns Verschlusssachen ist, gemessen an dem, was früher Verschlusssache war, ins Immense gewachsen und auch von daher gibt es Unterschiede. Andererseits, Herr Dr. Hockerts, der neben Ihnen sitzt, hat bis 1957, er wird sicher im Verlauf der Tage darauf zu sprechen kommen, alle Verschlusssachen der Regierung für ein zentrales Thema der deutschen Innenpolitik ebenfalls bekommen. Innenpolitisch geht es bei uns besser als außenpolitisch. Das hängt ja auch mit Rücksicht auf die anderen Mächte zusammen. Non voglio smentire l'amico, sono ancora due che hanno chiesto la parola. Non voglio entrare in questo problema, ne discuteremo, visto che parliamo di archivi riservati, ne parleremo riservatamente noi due. Wird der Vorschlag gemacht, es sind noch zwei Wortmeldungen da, die wir aber heute nach dem Mittagessen, wir fangen pünktlich um 15 Uhr an, die beiden Wortmeldungen können dann kommen. Und wir haben noch so viel Zeit, eher wird ein Beginn, dass wir die Diskussion dann fortführen müssen. Jetzt müssen wir hier abbrechen, weil wir pünktlich beim Mittagessen. Die Anwesenheit des Regionspräsidenten und so fort konnte heute Morgen nicht zunächst die gegenseitige Vorstellung stattfinden. Und wir möchten das heute jetzt zu Beginn der Nachmittagssitzung nachholen. Ich wäre dankbar, wenn diejenigen, die hier ja in der Liste alle alphabetisch aufgeführt sind, sich in der alphabetischen Ordnung vorstellen würden, kurz sagen, wer sie sind und was sie tun, damit wir uns gegenseitig etwas besser kennenlernen. Causa la presenza questa mattina del Presidente della Regione, per cui si è dovuto dare un corso diverso ai lavori, è stata omessa la parte che di consueto viene qui svolta, quella cioè della presentazione da parte dei borsisti di chi Und Jean-Dominique Durand. Sì, questo è. No. Abbiamo da dire. Hase, Klaus. Hase. Ja, Frau Götz ist mein Name, ich bin Privatdozent für neueste Geschichte in Bonn und zurzeit in München. Adresse an Masseroni. Sì. Forte, prego. Avanti. Milanesi? Un po' di famiglia di storia moderna, mi sono occupato di storia delle culture e dei rapporti, gioco dei rapporti tra Italia e il mondo del Paladino. Paladini? Paladini si scusa, è assente perché è al Consiglio Nazionale Universitario. Sì. Dottor Pomeri? Un assistente al Historischen Seminar Universität Köln, un suo professor di Zuma. Stockholm? Ich studiere Geschichte Germanistica an der Universität Innsbruck und mache meine Doktorarbeit über die Stadt Trier. Die Stadt Trier. Ja. Professor Torraldo Serra. Collaboro alla Scienza Politica di Roma. Wirt? Ja, ich studiere Geschichte in Innsbruck. Ich Professor Wirt. Dankeschön. I relatori sono il professor Aliberti. Qua? Professor Bongard non è ancora arrivato, professor Bendiscioli da qui, dottor Buchstab, Corsini è noto, Würten sta qui, Margiotta Broglio viene venerdì mi sembra. Margiotta Broglio venerdì. Monticone non è ancora arrivato. Monticone? No. No. Questa mattina. Professor Moscati è famoso, è conosciuto. Pastorelli. Pastorelli è presente. Sono io, Tenbrook arriverà stamattina o domani, stasera o domani mattina, professor Vambusca verrà. 12 o 13. Dottor Fancivi è assistente, il mio assistente a Bonn. Professor Albrecht è cattedratico in Regensburg, professor Barrier. No. Arriva martedì, domani, mi ha telefonato. Dill è quel... A cui dobbiamo tutti sì. essere grati per le sue precise traduzioni. Sì. Professor Ruffili? Il professore Ruffili e Scopa dovrebbe arrivare mercoledì giovedì. Ah, e De Rosa anche. Colombo? Smith van Fosmond e De Gennaro. Ah, lei ha. Potrebbe essere Michele.